positivo. Adesso vediamo un pochino, Vela, ci sei? Kappa. Attento Vela, attento Vela, Giuseppe ti fa chiamata, Kappa. No Mario, io sono provato a salire sul 14 ed è una cosa che non si crede. Attento Mario. Mario. Sono sempre attento. Ma di positivo Mario, quei rizzi per me e ci sentiamo, mi auguro subito, tempo 5 minuti perché vado giù e aspetto Vela e riprendiamo dalla macchina Mario, sempre sul 10 però Mario, mi hai copiato? Ok, adesso ti ho sentito Mario. Ok, adesso mi avvicino giù, così come aveva Vela. Vediamo di cavarmi i piedi con questo segnale strano che mi sta entrando dentro casa, Mario. Scappa, scappa.